questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, anche un po' di perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. È il secondo appuntamento con il meglio di Radio Tube, Daniele. La prossima settimana puntate nuove. No, il perdibile, l'imperdibilissimo di tutto l'anno. Ma tu quando sei in vacanza, twitti? Sì, è questa la grande domanda. Sì, sì, cioè mi piace, il social mi piace. Network è acceso o spento in vacanza? Ma, a me, ma guarda, fa parte della mia vita, quindi ogni tanto una twittatina ci sta. Quindi un po' cali? Beh, sì, forse fisiologicamente sì, però dai, una twittatina ogni tanto ci sta. Quindi se loro vogliono scriverci, costoro, tutti, potete farlo a @MartaCagnola, @DiBellasio. E poi, ovviamente, l'hashtag è il cancelletto Radio Tube. Vale anche per il 2014. Vale per il 2014, vale anche quando siamo in vacanza. Ed è l'ultima volta che mettiamo questa siglina con le campanelline. Che peccato, mi piaceva così tanto la siglina. Ma possiamo chiedere di poterla tenere? Noi campanelline tutto l'anno? Sì, oltre tutto il 2014 lo facciamo come fosse Natale. Perché quando conduco con Marta Cagnola è sempre Natale. Allora, dopo questa idiozia di Daniele Bellato. Ma perché? Ma uno inizia l'anno buono. Ma la prima intervista che riascoltiamo è serissima. Ah, giusto, perché tu non puoi diventare un po' meno secchiona in questo anno. Ma mi piacciono lasciarti i numeri, un po' andare, sempre numeri, scienziati, i numeri, pubblicità, le l'economia, gli ascolti, belli. Allora, 2014 sarà l'anno della rivoluzione. Ne abbiamo parlato il 14 dicembre e riascolterei insieme a te, Daniele, questa intervista che ci parla di una rivoluzione nelle misurazioni degli ascolti proprio per il 2014. Eccola qui. Pare che si stia profilando una rivoluzione, una possibile rivoluzione nei conteggi degli ascolti. Sì, noi parliamo spesso della legge di Freccero. Giusto, la legge di Freccero, la ricordiamo per chi non la... Più si twitta, meno si vede in TV. Cioè, una trasmissione molto twittata non è detto, anzi è molto probabile non sia, una trasmissione molto vista. Forse perché sono pochi quelli che la nicchia. Però l'idea è quella di in qualche modo misurare il nuovo audience, cioè l'audience dei social network. Non si chiama ancora così, ma si chiamerà in un modo un po' diverso, no? Più si finanziario quasi. Si chiamerà in un modo un po' diverso, lo farà la Nielsen, e noi lo scopriamo subito grazie al General Manager Sales and Media Solutions, l'ho detto bene, di Nielsen Italia, Luca Bordin. Buonasera Luca. Buonasera. Buonasera a voi. Luca, che cosa succederà? Che cosa misurerete? Voi già misurate l'audience della televisione con dei parametri un po' diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati con Auditel. Voi che cosa, cioè Nielsen, che cosa già misura negli Stati Uniti e che cosa sta per misurare anche in Italia? Ma Nielsen già misura negli Stati Uniti l'audience sempre, quindi quante persone diciamo guardano, consultano i tweet a contenuto televisivo sulla piattaforma appunto di Twitter. Vale a dire che la particolarità è che fino ad oggi erano disponibili le informazioni riguardo al numero di autori e al numero di tweet, quindi volumi di attività che erano generati sulla piattaforma di Twitter a contenuto televisivo. La novità che introduce Nielsen è quella di dare conto anche di quante persone consultano, guardano, leggono questi tweet a contenuto televisivo. Io sono andata già a spulciare rating, i Nielsen Twitter TV ratings di questa settimana, e questa settimana in America è stato twittatissimo questo The Sound of Music Live. Ne abbiamo un pezzettino. A bell is no bell till you ring it. A song is no song till you sing it. Carrie Underwood ha rifatto tutti insieme appassionatamente, e io che ho una parte della mia timeline, cioè delle persone che seguo su Twitter, americana. Oh mamma, no, perché tutti gli appassionati trendy. Ma no, gli ma appassionati, no, certo, di televisione americani, io magari li seguo, e mi capita e la mattina di svegliarmi, no beh, seguo le grandi firme, non stanno mica a seguire me, mi capita di svegliarmi e di vedere tutti i tweet americani, ed effettivamente qualche giorno fa tutti twittavano di questo Tutti Insieme Appassionatamente, massacrato su Twitter, non succede solo in Italia, ed effettivamente Luca è primo nella classifica settimanale americana. Succederà così anche in Italia, quindi? Diciamo che appunto il fenomeno è soprattutto connesso, perché la piattaforma Twitter, come sapete, è in real time, no? Quindi si sincronizza benissimo sui programmi live negli Stati Uniti e genera questa quantità enorme di tweet appunto relativa al contenuto televisivo in diretta. Questa è un po' la particolarità che si riscontra anche in Italia. Come sapete, X Factor ha avuto un'esplosione di attività social quest'anno, più 500% rispetto all'anno precedente, quindi un fenomeno americano ma anche italiano, e per questo che abbiamo deciso di sviluppare la nostra piattaforma anche in Italia. Hai citato X Factor, ma c'è un altro evento che è stato seguitissimo su Twitter, eccolo qua. Allora, il vincitore del 63° Festival di Sanremo è Marco Mengoni! L'applauso dell'Ariston, chiamiamo Marco Mengoni! Eccolo qua, io ve l'avevo detto che avremmo sentito Marco Mengoni. Vabbè, questa era solo la proclamazione della vittoria al Festival di Sanremo, ormai dell'anno scorso, perché siamo pronti per il nuovo festival. Luca, c'è da immaginarsi, anche se ho letto che i vostri dati arriveranno dall'autunno, quindi il prossimo Sanremo non sarà ancora previsto, che un evento come Sanremo sia praticamente prevedibile che possa balzare subito in cima alla classifica. Assolutamente, come vi ripeto, gli eventi in diretta sono particolarmente twittati, cioè la piattaforma di Twitter si adatta benissimo al commento da parte dell'audience sulla piattaforma di Twitter. Negli Stati Uniti infatti i reality show e gli eventi sportivi sono quelli che entrano sempre nella top 10, e c'è una vera esplosione soprattutto per quanto riguarda gli eventi sportivi durante il weekend. Quali informazioni si potranno in qualche modo desumere da questa misurazione? Beh, come dicevo, la informazione è molto molto interessante sia per i broadcaster sia per gli investitori pubblicitari, è quella di sapere quante persone guardano questi tweet, perché come ripeto, sull'attività, quindi il numero di autori e quanti Twitter fanno, diciamo che già c'è già sul mercato un reporting disponibile, ma nessuno sa quanta audience questi tweet, questa attività su Twitter generano, e quindi potenzialmente con quante persone si riesce a entrare in contatto. Rispetto a quello che dicevate prima, su quello che dice Freccero riguardo l'attività social, in realtà noi abbiamo degli studi negli Stati Uniti dove pare invece che ci sia una correlazione bionivoca fra audience del programma televisivo e tweet generato, ma anche il contrario, molta attività tweet genera un incremento dell'audience sul programma televisivo. Sì, probabilmente in Italia il problema è dovuto da una parte alla diffusione di Twitter, ancora diciamo secondaria rispetto per esempio a quella di Facebook, e dall'altra parte alla differenza dei pubblici, cioè chi usa tanto Twitter di solito non è un telespettatore assiduo della TV generalista. Un po' questa distanza da colmare poi renderà sempre più efficace il collegamento e la comprensione del collegamento tra quanto se ne parla su Twitter e quanto si vede in televisione. Certo, sì, diciamo il lancio della nostra iniziativa ha proprio questo scopo, quello di dare dei numeri affidabili, consistenti al mercato per poter sviluppare appunto questa nuova opportunità per la televisione, per gli investimenti pubblicitari, ecco. Ma noi serviremo di più o di meno, quindi, come RadioTube? Noi serviremo sempre. Tantissimo. Sempre. Abbiamo parlato di Festival di Sanremo, ma c'è stato un altro evento nel 2013 che è andato in cima alle classifiche dei trending topic, ed era questo. Ladies and gentlemen, you have voted and we already have a winner of the Eurovision Song Contest 2013. And as you can see, I have dressed accordingly. The winner is Denmark. Allora, la vincitrice era Danimarca, stiamo parlando, per chi l'avesse riconosciuta, di Emily de Forest, la vincitrice dell'Eurovision, quindi il Sanremo europeo. Facciamo hashtag facili. Io quella sera lì me lo ricorderò sempre. Non capivo di che cosa si stesse... Era un hashtag che sembrava un codice fiscale. Allora, cosa è successo quella sera? Intanto, ovviamente... quella sera, io lo so che sembro monomaniaca, ma l'italiano era Marco Mengoni. E peraltro, adesso... È la puntata di Valeria. È la puntata di Valeria in regia. Peraltro, posso essere autoreferenziale, sono molto contenta perché una mia foto con Marco Mengoni, insieme a Francesco Chignola di TV Sorrisi e Canzoni, Chiocciola Checoz, Eddie Anselmi, che è il grande maestro italiano dell'Eurovision, è finita nei top Twitter del 2013. Direi mica pizze fichi. Mica pizze fichi. Con l'hashtag, vediamo questa foto, non si può vedere adesso. Vabbè, ve la mostro dopo in diretta alla radio. È stato un fenomeno particolare perché l'Eurovision per tanti anni non è stato nemmeno seguito dalla televisione italiana. Brava, hai ragione. Ed è rivitalizzato dai social. Rivitalizzato anche dai social, quindi può accadere anche questo, Luca? No, assolutamente, infatti gli americani dicono che la social TV energizza la televisione, vuol dire che in poche parole rivitalizza la televisione, trasformando un audience che tradizionalmente è considerato un audience passiva, quella televisiva, in un audience attiva, quindi che genera contenuti a sua volta e che genera nuove opportunità di espansione per il mezzo televisivo, assolutamente. Grazie Luca Bordin, General Manager Sales and Media Solutions di Nielsen Italia. Grazie, a presto, e quindi grazie, noi aspettiamo voi. I TV ratings di Twitter prossimo autunno. Sicuramente, grazie a voi. RadioTube. Bentornati a RadioTube, bentornati al meglio di RadioTube, la seconda puntata con il meglio del 2013, in attesa di tutte le novità del 2014 che abbiamo testé iniziato da pochi giorni. Abbiamo cominciato ad assaporare questo anno pari. Una puntata, quella del 14 dicembre scorso, in cui abbiamo parlato, per la gioia di Daniele, di sport, di calcio. Oh. No, perché mi avevi un po' snobbato lo sport, come dici tu, mi avevi. Nel primo meglio di della scorsa settimana me l'avevi un po' snobbato. Per mi fortuna un po' abbiamo alla musica, star, è vero. Una star della TV, ma soprattutto di Radio 24. Il mio conduttore preferito di Radio 24. E soprattutto che ha sfondato in questo weekend calcistico. Tu stai sfondando il microfono dall'entusiasmo. Iniziamo questo 2014 con un microfono in meno, ma con una grande trasmissione sportiva nel weekend. Tutti convocati. La domenica mi piace tantissimo, però io non anche tutta la settimana. E il mio conduttore preferito di Radio 24, Pierluigi Pardo. Che abbiamo al telefono. Che abbiamo avuto il telefono il 14 dicembre scorso, perché lui non solo è un grande conduttore di Radio 24, ma è un campione della TV e della social TV, quindi perfetto per RadioTube. Poi su Twitter è veramente un fuoriclasse. Chissà oggi quanti follower ha già raggiunto. Dobbiamo controllare. Intanto ci riascoltiamo l'intervista a Pierluigi Pardo. Parliamo di una cosa che fa sempre tremare il web. Sai cosa, Daniele? Il calcio, finalmente. Questo è il mio spaccato, no? Sì, anche perché io non capisco niente, capisco poco di calcio, sì. Però capisco molto di calciatori. Sì. E mi intendo molto di calciatori, e come qualcuno qualche istante fa mi diceva, mi intendo anche di telecronisti. Ah, Cioè parti subito con l'estetica, sempre parto subito con l'estetica. Sei una grecista classica. E allora vorrei subito collegarmi con il mio conduttore preferito di Radio 24. Ma che scandalo, l'ha detto anche Nicoletti, l'ha detto anche Nicoletti. L'abbiamo sentito, eccolo qua, Pierluigi Pardo, buonasera Pierluigi. Anche a Cruciani, dica Parenzo, che pace per te, fortissimo. No, io lo adoro, io adoro Pierluigi Pardo e secondo me, adesso lo dico subito, lui è il conduttore di maggior successo di Mediaset quest'anno, non ce n'è, punto. Esatto. Guarda che poi queste cose non si fanno. Punto. E poi posso dire che secondo me lui non si deve occupare solo di calcio, secondo me Pardo dovrebbe spaziare, fare ma cose. Infatti su lui Twitter è anche un fuoriclasse di Twitter, no? È un fuoriclasse di Twitter, non lo seguiamo su Twitter, chiocciola Pierpardo. Adesso però c'è anche l'account della sua trasmissione, che è una trasmissione con un successo sterminato, Tiki Taka, e ho anche imparato a dirlo senza ingarbugliarmi. Ma sai cos'è? Io so che è un tipo di gioco di una squadra spagnola. Ah, vedi che ti sei informata come al solito, secchiona. Ho studiato. Pierluigi, che avventura è Tiki Taka? Cioè, tu te l'aspettavi un successo del genere? Appunto, no, perché noi parliamo sempre del fatto che il talk show politico è semi... No, vabbè, lì qui a un certo punto dicevano, forse anche il talk show sportivo in crisi, è arrivato Pardo e pam! Le il talk show tutti. Calcistico è tornato... Una te bomba. L'aspettavi una cosa del genere, Pierluigi? Innanzitutto invitatemi più spesso, perché devo dire che il mio ego c'è abbastanza sviluppato negli ultimi due minuti, infatti ti ho ascoltato proprio con piacere, con godimento profondo. No, non me l'aspettavo perché comunque è la TV generalista alla quale mi sono affacciato da poco, è un animale strano, ha delle sue regole, ci sono tutta una serie di incastri, di situazioni, di trascinamenti, vai in fascia lì perché quell'altro, cioè tutta una serie di cose anche tecniche che sono onestamente molto difficili, quindi non me l'aspettavo, però insomma, a me faceva piacere fare un programma nel quale mi sarei divertito, ecco, questo per ora è ampiamente realizzato, quindi questa è la cosa più importante. Tra l'altro in novembre sei riuscito a sfondare il muro di Porta a Porta, uno share record del 12,6% i primi di novembre, avevi superato appunto Porta a Porta. Cosa è successo? Che tu giustamente hai twittato fatto più di Porta a Porta, ma il primo commento su Twitter sorprendente fu: grandissimo Pierpardo, altro che Tiki Taka, il tuo è un calcio totale alla Sacchi. E lo firmò Andrea Vianello, direttore di Rai 3. Quindi... Non mi mettere in mezzo. No, soprattutto per Vianello, grande milanista, citare il calcio totale di Sacchi vuol dire tanto. E che vuol dire? Che alla fine Twitter ha una sorta di piattaforma comune che un po' va al di là delle reti, perlomeno nelle interazioni sociali. Sicuramente c'è stata anche qualche polemica su quel tweet. Io onestamente posso solo ringraziare Andrea Vianello, che penso abbia fatto un tweet nei confronti di una cosa che mi piace, quindi insomma. Ma no, giustamente, ecco, ma poi sai le polemiche. Poi si può discutere sull'opportunità se uno fa il direttore di citare cose di altri programmi, però insomma. Vabbè, ma queste sono robe da Seconda Repubblica. Esatto. Tra l'altro, noi siamo oltre, no? Ma certo. Voliamo alto, no? A proposito di volare alto, senti qui che cosa ha combinato recentemente Pierluigi Pardo. La parabola calcistica di Matteo Renzi. La prima volta allo stadio, c'è un ricordo preciso? Fiorentina-Avellino 3-0, però non mi ricordo se era l'80-81, 81-82, ricordo un grandissimo gol su punizione di Giancarlo Antonioni. E quindi il nostro Pierluigi Pardo è riuscito anche nell'impresa di unire il calcio allo spettacolo, alla politica. Pierluigi, come mai hai deciso di innestare anche questi diversi mondi nel talk calcistico? Perché il calcio ha una sua forza che è mondiale, che appunto viaggia in tutti i continenti, in tutti gli strati sociali, in tutte le zone del mondo. E io onestamente da malato di calcio non ho mai sentito nessun senso di inferiorità culturale nei confronti di altre forme, diciamo più per esempio nei confronti dei talk show politici, tanto per capirci. Cioè, credo che il calcio, come tutte le cose della vita, poi se viene trattato con leggerezza e con divertimento, sia una cosa importantissima. E tra l'altro è una cosa appunto che unisce le generazioni, è una cosa anche molto romantica. Quindi noi diamo spazio a tutti. Abbiamo avuto attori, abbiamo avuto cantanti, considerevo ad averli. Il caso di Matteo Renzi è un caso particolare. In generale io non vorrei fare il processo di Biscardi con i politici, tipo tipo anni 80 o 90, però insomma io credo che il calcio riguarda tutti, insomma, anche le donne, no? Le donne che però sono, adesso posso farti una critica, sempre troppo belle ste donne che parlano di calcio, ma anche una un po' meno bella. A proposito di belli, io vorrei farvi sentire un qualcosa che è piaciuto molto a Daniele Bellasio, a proposito di belli, un allenatore molto... No, non è bello, Daniele Bellasio, bello un allenatore, questo è un filosofo, come dimostra anche questa una comparsa, cosa che ha appassionato moltissimo Daniele, uno spot, abbiamo levato la marca, ma ecco lo spot. Stiamo per trasmettervi un nuovo aggiornamento della conferenza stampa di Mourinho. Eccolo. Appena Mourinho fa qualcosa, tutti copiano Mourinho. Trasparente si nasce, non si diventa. Il resto sono chiacchiere da bar. Ma scusi Mourinho, al bar offre lei? Come scusi? Offre lei al bar oppure fa il portoghese? E questo era il Mourinho della pubblicità, che a te è piaciuto che molto, non diciamo, che lui non appare. Accusato di essere molto immagine, lui ha tolto l'immagine. Ma abbiamo Genio. Anche un altro Mourinho, vorrei farvi ascoltare, anzi vedere alla radio questo Mourinho. Perché tutti parlano del fuori gioco, forse di pochi centimetri, ma calcio di rigore, perché non ne parla nessuno? Perché non ne parla la UEFA, non ne parla la FIFA, non ne parla Konami, non ne parla Digital Bros, non ne parla Halifax, non ne parla il PES, non ne parla 2012, non ne parla il risultato, non ne parla. Perché? Io questa l'ho trovata in rete, Pierluigi, però ti piace fare imitazioni, eh? Allora, la prima regola di questi tempi, voi che vi occupate del web, è che appunto nulla si distrugge. Tutto rimane. Ne ho trovate tutto, tante. Nulla si distrugge, tutto si trasforma, adesso non si trasforma neanche più, tutto rimane in rete, viene pescato e verrà usato contro di voi, come in questo caso. No, ma lì eravamo alla presentazione di un evento, che faccio insomma, la telecronaca, io gioco della PlayStation da 6 anni, e, insomma lì c'era questa presentazione, a un certo punto, essendo io un simpatico imitatore nel tempo libero, e che ho fatto questa roba. Però Mourinho è un personaggio straordinario, che appunto è stato capace di... è lo stesso discorso, cioè il calcio diventa tutto, c'è il fattore tecnico, ma diventa anche comunicazione, diventa anche immagine, diventa anche essere più o meno glamour, quindi moda, tendenza a ogni livello, insomma credo che sia ormai quella fase lì nella quale dovevamo vergognarci, oppure nella quale l'appassionato vero di calcio veniva visto come uno che aveva avuto problemi di sviluppo, un'acne giovanile particolarmente intensa e chissà quali altri problemi, e una vita sessuale e sentimentale complicata, per dare che l'abbiamo superata, insomma. Questa è una passione grande che può essere alta, nobile, che ovviamente riempie le pagine dei giornali, perché è un gioco meraviglioso, perché al netto di tutte le miserie, di tutte le tristezze, gli scandali, la violenza, le cose orrende che vediamo, questo gioco è meraviglioso, è popolare, è assurdo nel suo svolgimento, non sempre vince il migliore, quindi è una cosa che assomiglia in maniera profondissima poi alla vita, e per questo secondo me piace, è successo. Ma uno come te come riesce a gestire un account di Twitter? Perché immagino che tu hai una quantità di follower infinita, insomma come riesci a gestire il tuo rapporto nei social? Ti dico la verità, sono delle volte sorpreso da come altre persone usano Twitter, nel senso che secondo me Twitter non è per la comunicazione uno a uno, lo dico sinceramente, nel senso che sarebbe impossibile farla. A me ci sono delle cose su Twitter che odio. La prima è la gente che retweeta i complimenti, è una cosa, un'esistenza secondo me irreale, lo dico proprio assumendomi le mie responsabilità, perché retweetare i complimenti significa, a parte che insomma c'hai un po' di follower e retweet i complimenti, sembra che è soltanto quel giorno che ti è arrivato un complimento, cioè o li retweeti sempre e allora diventi assurdamente autoreferenziale, oppure se lo retweeti così ne cominci a retweetare un po', non ha nessun significato. E poi secondo me le polemiche individuali, cioè Twitter è un mondo meraviglioso, ti arriva un sacco di feedback, qualche volta qualche provocatore può arrivare, o qualcuno che ti esprime un'opinione, quindi se cominci a entrare nel loop di rispondere a personam, secondo me non va bene. Secondo me Twitter è un diario, è una cosa utile per raccontare delle cose di te che ti va di fare, magari senti la frase di una canzone che ti piace e la metti, fai una battuta che ti va di fare, dai delle notizie. Io ti va ecco, ma hai mai colto? La Juve, lì ho fatto, ero veramente addicted, nel senso che davo aggiornamenti ogni 5 minuti, ovviamente al di là del lavoro, no? Hai mai tratto un suggerimento per la trasmissione da Twitter? Ma guarda, ti posso dire una cosa, più che sulla trasmissione, secondo me sulla telecronaca. io penso che un telecronista, allora, perché poi Twitter ha sempre due fasi, la scrittura e la lettura, si parla molto della scrittura, ma la fase fondamentale di Twitter secondo me è la lettura, cioè io non potrei rinunciare a Twitter non per scrivere, mamma chissà se valeva la pena fare tanta strada e arrivare qua a South Wood dedicata a De Gregori perché magari la sto sentendo, ma la cosa che veramente mi mancherebbe di Twitter sono gli aggiornamenti continui che posso ricevere da tutta una serie di soggetti, di testate, di persone, di cose interessanti per me in tempo reale. E durante una partita di calcio in diretta spesso succedono delle cose, ci sono delle reazioni, ci sono delle statistiche, per cui secondo me oggi un telecronista moderno, ovviamente senza distrarsi dalla partita e dalla concentrazione sulla partita, deve un'occhiata ogni 5 minuti darla per vedere se c'è qualcosa di clamoroso. Quindi che ci piaccia o no, secondo me con questo fenomeno dobbiamo avere a che fare e facciamo questo lavoro. 186.000 follower a Pierluigi Pardo. Io ne ho due o tre meno, diciamo. Ma io 4-5 allora. Però voglio segnalare anche, adesso c'è l'account @tikitakaita1. Che abbiamo scelto una cosa semplice. Volevo dare direttamente il mio IBAN. Generare così magari qualche errore, qualche elargizione si pare. No, però invece Tiki Taka Ita 1, sì. No, dai, non è difficile. Grazie Pierluigi, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Quindi ciao. L'appuntamento con Pierluigi Pardo su Twitter, @PierPardo, su Italia 1 con Tiki Taka, su Radio 24 con tutti i convocati, questo è importante. Beh, claro. YouTube. E rieccoci insieme a Radio Tube. Daniele, non abbiamo ancora dato i nostri hashtag e i nostri account di Twitter, visto che comunque siamo sempre sui social network, quindi diamoli un po'. Hai detto che anche durante le vacanze si deve twittare. Allora, @MartaCagnola e @DiBellasio. Un giorno vorrei fare una puntata su come si scelgono gli account, i nomi degli account, perché da quando conduco con @MartaCagnola, mi domando se non fosse stato meglio fare @DanieleBellasio. Ci stava, bisogna fare il conto dei caratteri, non lo so. Ah, è la questione dei caratteri, giusto, hai ragione. Non so, è una questione di carattere, come sempre nella vita. Invece l'hashtag è @CancellettoRadioTube. A proposito di hashtag, io so che tra poco comincerà la follia dell'hashtag Sanremo. Sì, beh, perché due cose, no? Abbiamo parlato di sport, due cose fanno molto twittare. Lo sport, soprattutto sabato e la domenica, quando ci sono le partite di coppa, sì. E la musica, soprattutto quando ci sono gli eventi come Sanremo, quello dell'Eurovisione. Quanto sto parlando oggi? E anche quando ci sono i talent, no? X Factor, quelle cose lì. Tu devi già preparare le valigie perché un mese e mezzo preciso si va a Sanremo. Io realizzo il sogno della mia vita facendoti da stringer, da vice, da qualunque cosa, che ti meraviglia. Porto le borse, faccio qualunque cosa pur di venire a Sanremo con te. Io porto te, porto tutti gli ascoltatori di RadioTube, ovviamente solo via radio perché non ci staremmo tutti insieme al Teatro Ariston. E non mentre vedo l'ora di... non hanno portato però Mango, che è la cosa no, che a me dispiace molto. Volevo Mango e neanche hanno portato quelli dei talent. Però sai che qualcuno ci ha spiegato un po' perché, se te lo ricordi, nella puntata del 21 dicembre scorso. Ci ha spiegato tutto, addirittura ci ha spiegato fra le righe del Sanremo del 60, qualunque cosa, lui l'enciclopedia vivente del Sanremo. Lui sa tutto, è il più grande esperto. E anche il tuo conduttore preferito? No, no. No, vabbè, lui no, è il più grande esperto preferito. Il più grande esperto di Sanremo preferito da @MartaCagnola. Esatto. Allora, riascolterei questa parte della puntata del 21 dicembre scorso, nella quale abbiamo parlato del Festival di Sanremo, mentre cominciamo a pensare già a cosa mettere in valigia per febbraio. Perché Sanremo è Sanremo. Sapevamo che la lista sarebbe arrivata in diretta nel TG1 delle 13 con Fabio Fazio, che doveva declamarla, Vincenzo, uno di quei riti, ma Fabio Fazio un secondo prima ha autobruciato. Quindi stava guardando il TG1? Sì. Quando stava per partire il servizio? No, in realtà era in diretta. Ah, e era ha in detto diretta. In diretta, aspettate, prima Twittiamo. Di leggere la lista la twitto. Che è straordinario. Twitter arriva sempre prima. Questo è un grosso dopo. Simbolo di, sì. di ecco. Però l'ascoltiamo la lista così. Sentiamo come la l'ha declamata Fabio Fazio. La lista di Sanremo 2014. Lui persona. Arisa, Noemi, Raffaele Gualazzi con Bloody Beetroots, Iperturbazione, Cristiano De André, Renzo Rubino, Ron, Frankie Ajenergy, Giuliano Palma, Riccardo Sinigallia, Francesco Renga, Antonella Ruggero, Giusy Ferreri e Francesco Sarcina. Questi sono. Un secondo dopo, ovviamente Twitter invasa, Costantino della Gherardesca, buone notizie, ho sentito che oggi hanno comunicato i nomi dei concorrenti di Sanremo 2014 alla magistratura. Platinette, Mauro Plati, deceduto il divismo, avanti col vivismo, anche questa è carina. Il Paolo Giordano, collega del giornale, cattivissimo, leggendo i commenti sul cast di Sanremo qualche volta viene da pensare che vi meritate Albano. E perché non c'è Totolo anche? Guarda, quest'anno erano tutti lo scorso fine settimana. Ma il padre nobile chi è quest'anno, quindi? E direi che Ron. Ecco, Ron, già. Ron, cioè, Ron. Mango lo sarebbe stato. Mango, volevo Mango, hashtag. Erano tutti in Azerbaigian i padri nobili questa settimana a fare un festival di Sanremo in Azerbaigian. Ebbene che sì. Che bello. E poi Luca De Gennaro, invece, MTV, ha criticato la mancata scelta di Levante tra i giovani, una cantautrice, e lui ha commentato: l'unica ragione che posso pensare per non aver preso Levante a Sanremo 2014 è che Sanremo a Ponente. Beh, non diciamo, è male. C'è stato un attimo tutto di gelo, visto anche il freddo fuori. Tutto però insomma, si passa. Sai con chi vorrei commentare questa lista di Sanremo? Con il massimo esperto del Festival di Sanremo, compilatore dell'almanacco della Panini, quindi capito? Dobbiamo essere un po' tassonomici per essere alla tua altezza. Lui è enciclopedico. Eddie Anselmi, buonasera Eddie. Ciao, ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io sono lusingato sempre da questa mia massima espertità di cui mi ammantate. Insomma, è verissimo, è verissimo. Prima di riprendermi l'emozione, non si dice l'età delle signore, però il Festival di Sanremo l'anno scorso aveva un padre nobile che era Elio, quest'anno una madre nobile che è la signora Ruggero. Ah, che è un po' più anziano. Così, per questione di mesi, forse 18 mesi. Quindi... Vabbè. Però, vabbè. No, quindi abbiamo un padre, signore, esatto, ecco, diciamo... non si dice. Eddie, tu che reazione hai avuto di fronte a questa lista? Il tuo commento lapidario? Cioè, ti piace o non ti piace? Ecco. Mi piace, così sintetizzandola mi piace, perché io il giorno prima stavo discettavamo sulla composizione del cast della sezione giovani, che era già stato annunciato con qualche giorno in anticipo, e il nome che si faceva come caso di scuola di gruppo che ha mancato 10 anni fa l'appuntamento con i giovani, non ha mai poi dopo raggiunto il successo mainstream a cui era secondo me destinato meritatamente, si faceva il nome dei Perturbazione. Quindi il vedere i Perturbazione nella lista di Sanremo mi ha stupito piacevolmente, perché tutto mi sarei aspettato tranne di vedere i Perturbazione tra i big. D'altra parte dovevano andare tra i giovani 10 anni fa, nel frattempo sono passati Barbara Gilbo, sono passati insomma, altri tipi di giovani ormai. Altri carneade, diremmo, chi erano costoro? I Perturbazione, se dovevano andare a Sanremo oggi, il loro posto era tra i big, e tra i big sono andati. Ma questa polemica, cioè, non ci sono, non ho capito, se ho capito giusto, come si dice, e non ci Bellasio sono... sta studiando la storia non di ci Sanremo sono per quelli prepararsi. Dei talent stavolta, c'è sta... Cioè, bene, sì. È bene, male, non ho capito. Che ne dici? Non, nessun non amico di Maria, nessun X Factor. Allora, la cosa è molto positiva, perché di fatto gli amici di Maria... Le Scarrone, i Caroni, le Emma avevano un effetto dopante sul televoto. Di fatto si presentavano in gara con un vantaggio competitivo raramente colmabile. Quest'anno, a parte forse Noemi e Arisa, che hanno un lievissimo vantaggio in termini di popolarità mainstream immediata degli ultimi anni, non vedo una persona che possa presentarsi con uno zoccolo duro di televotanti tale da fare la differenza. Quindi vedo una gara molto più aperta, e questo direi che è un fatto positivo, perché quando una gara aperta è più emozionante, quando non si sa chi vince è più bello seguire la gara. Sono d'accordo, io continuerei ad ascoltare un altro pezzettino di Fabio Fazio, perché così ha dato la spiega, ha dato la spiegazione delle sue scelte, eccola qua. Si chiama Festival della Canzone Italiana, abbiamo cercato, oltre diciamo alla rappresentazione del classico, ma soprattutto di essere contemporanei. Abbiamo scelto pezzi che ci sembrano assolutamente interessanti, che immaginiamo possono interessare molto alle radio, quindi al mercato, quindi agli ascoltatori e a un pubblico di appassionati di musica. Credo che contemporaneità sia proprio la parola d'ordine di questo festival e spero che verrà, insomma, riconosciuta e apprezzata dal pubblico. Sanremo deve essere invece il luogo in cui viene fatta ascoltare alla maggior parte delle persone possibili, per l'appunto, la musica di oggi. Eccolo qua il Mollica che è attento alla rete, lui insomma... Sì, stava per dire Twitter, poi ha detto ma tutti gli altri strumenti. Ma sì, quelle è cose. È stato generico, sì. Molto attento. Allora, io adoro Fabio Fazio, il festival dell'anno scorso mi ha divertito tantissimo, io vorrei altri 7-8 festival di Fazio, ma se proprio l'anno prossimo Fazio non volesse rifarlo, e posso capirlo, io sono d'accordo con Dr. Apocalypse, chiocciola Dr. Apocalypse su Twitter. Ma è vero? Un fake? No, è un bravissimo collega, Federico, è un bravissimo blogger, che scrive Sanremo 2015 a Carlo Conti. Ah, proprio si è schierato. Anch'io sono, se Fazio non volesse rifarlo, Carlo Conti è molto bravo. Per Carlo Conti. Eddie, tu che cosa dici? Ti piacerebbe un Sanremo 2015 a Carlo Conti? Allora, il presentatore può essere chi che sia, a me interessa il direttore artistico. Ora, se il direttore artistico sarà Mauro Pagani o se la Rai sarà talmente folle, perché il segreto del successo è pensare fuori dal prevedibile. Quindi io abbinerei Carlo Conti con Elio De Sogliettini Tese, farei a presentare e gestire il festival a loro, tutte e due, sia l'uno che l'altro, con un rapporto come Carlo Conte a fare Dean Martin e tutti gli Elio Storia Tese a fare Jerry Lewis. Secondo me è un esempio. Quello Beh, come andare... del resto c'è Luciana Littizzetto, no? Quindi... Una sorta di Luciana Littizzetto, però chiaramente anche sarebbe un dream team il mio, che potrebbe curare tanto la parte artistica quanto la parte della conduzione. Ma chi manca secondo te? Chi avresti visto bene in più? A parte Mango. Allora, diciamo che di tutti, la parola contemporaneità la evocò per la prima volta Bonolis nel 2009, per poi essere ripetuta da Mazzi e Morandi nel 2012 ed essere poi ridetta da Fazio magari a un pochino più di attenzione a quello tutto. Che sta succedendo adesso. Sa tutto, te l'ho detto che sa tutto, Eddie. È uno slogan, quello del contemporaneizzare il festival, che viene annunciato da tempo. In realtà di veramente contemporaneo c'è pochino. Perturbazioni, Riccardo Sinigaglia e Giuliano Palma potevano tranquillamente, avrebbero anzi meritato di essere in un festival tra il 2003 e il 2004, quindi siamo 10 anni fa. Meglio riprendere un discorso interrotto inopinatamente che non lasciarlo, però insomma... è anche un po' un dove eravamo rimasti, oltre una contemporaneità tout court. Chi avrei visto non lo so, perché secondo me la scelta è stata fatta e ovviamente non sui nomi ma sulle canzoni. Ascolteremo le canzoni, questa è la questa cosa. Era importante. Partito dicendo mi piace, ma poi qualche punzecchiatura non male. Ce la deve tirare fuori. Bravo. Cosa non va? Cosa no, fatto no, certo. Però allora... sono, qualche anno fa dicevo quello che andava. Adesso sono entusiasta. Ottima sintesi, direi. Allora, mentre io cerco di non morire di tosse, ringrazio Eddie, grazie di essere stato con noi. Tanto ma noi torna. Ci vediamo. Ma peraltro ci vediamo a Sanremo tra un paio di mesi. Tra un paio di mesi ci vediamo a Sanremo. Grazie, Eddie Anselmi. Buona serata, ciao. Ciao. Io prima di lasciarvi, perché ci dobbiamo interrompere per qualche minuto, vorrei farvi ascoltare anche una chicca che mi ha segnalato il nostro prode Daniele, perché abbiamo parlato di Carlo Conti. Sì, no, in rete ne parlano, eh. Ne parlano in ne rete. Parlano. Questo video questione è circolato di date, tanto, diciamo. Di preparazione storica. Io non ero bravissima a scuola in storia, però... E la reazione di Carlo Conti a un clamoroso errore è notevole, da grande conduttore. Allora, lo ascoltiamo e noi ci ritroviamo tra poco. A dopo. Adolf Hitler viene nominato cancelliere. 48. No, errore per Ilaria. Matteo. 1964. No. Tiziana. 1979. No! Adolf Hitler! Sarà forse 1933? È il 33! No. Ma... E Mussolini riceve a Palazzo Venezia il poeta americano Ezra Pound. 64? Io farei un ripassino di storia, ma leggero, proprio un ripassino. Mi hai fatto proprio le domande. 33, 33, 33. YouTube. Ultimo blocco, Daniele, abbiamo quasi finito questa puntata di RadioTube, l'ultimo, il meglio di RadioTube per queste vacanze di Natale. Qualche giornino di vacanza ce lo siamo preso per ricominciare col peggio. Il prossimo, no. Il prossimo fine settimana daremo come ancora peggio del peggio di RadioTube. Però scusami, questo meglio di dovremmo finirlo con il primo grande scoop di RadioTube. Ma dai, fatto facciamolo, te, facciamo, peraltro. Beh, senti, no, un diciamolo, grande, diciamolo, hai creato scompiglio, polemiche in tutte le redazioni. Su tutti i siti se ne è parlato di questa intervista, diciamolo. Eh beh, c'è qualcuno che ha, lodiamoci, che ha tirato fuori verità scottanti, che anche la social TV a volte e i social network a volte possono creare, insomma, dibattito. No, peraltro ha detto una cosa anche giusta, perché a volte uno ha la sensazione di fare le cose perché le ha twittate, no? Eh sì. E invece bisognerebbe prima fare le cose e poi twittarle. Questa è la regola che lui ha dato. La regola del boss. Continuiamo a non nominarlo, andiamo avanti. La regola del boss. Una delle regole del boss. Non nominiamolo, facciamo capire mandando l'intervista. No dai, diciamo chi era. Era il 21 dicembre scorso. 21. E abbiamo incontrato... mettiamo le cose in chiaro, lo scoop è tuo. Un personaggio straordinario che presto sarà protagonista della nuova stagione di una trasmissione che ha fatto scatenare l'anno scorso i social network e secondo me lo farà anche quest'anno, The Apprentice. Quindi in attesa di The Apprentice 2 riascoltiamo l'intervista a Flavio Briatore. Rieccoci insieme con questa puntata di RadioTube. Abbiamo parlato di canzoni, che bello, quanti fenomeni televisivi nelle trasmissioni che stanno andando in onda o che andranno in onda, quanti fenomeni televisivi legati a Twitter. Sì, però ricordiamoci che siamo anche la radio di un gruppo che si occupa molto di economia, di impresa, di manager, no? E quanto avremmo bisogno di grandi manager? Ecco. E soprattutto io vorrei occuparmi, come dici sempre tu, della mia conduttrice preferita di Radio 24. Perché? Capito? Cioè, della mia conduttrice preferita di Radio 24, che? Marta Cagnola. Oh, ma sul Tube. Avevo paura che tu me ne citassi un'altra. Guarda, no. Avrei preso e me ne avrei lasciato qua da solo davanti al microfono. No, ecco. No, assolutamente no. Mm. Che cosa hai fatto? Hai preso la trasmissione più virale, più twittata, più tutto, più discussa, più anche chiacchierata. Sì, perché più... c'è una persona in questa trasmissione che suscita proprio le reazioni, cioè, più viscerali. Tu lo nomini e pro e contro. Certo, ma inizia con la B, come con l'altro. La B, è amico dell'altro B. Dell'altro B, sì. Esatto, ma è... Ma è Flavio Briatore. Allora, okay. Io sfido chiunque a rimanere neutro di fronte a dire: ma Flavio Briatore, mammi, niente di che. Allora, oppure a dire chi è. Chi è? No, allora, lo conoscono tutti. O ti sta strasimpatico. O lo detesti. O lo detesti. Ma lui è quello che ammette di aver chiamato il billionaire per far arrabbiare la gente. Perché così si vince. Ecco. Lui ha ragione. Io sono... E mentre tu lo intervistavi ti ha fatto arrabbiare? No, non mi ha fatto arrabbiare, è un uomo molto galante, molto gentile. Ti ha conquistato. Un po' sì, subito. Un po' sì. Allora, cosa ci fai sentire? Raccontiamola per bene. Allora, l'associazione a delinquere Cagnola Bellasio ha preso ed è andata, nella persona della qui presente Cagnola, in Kenya. Presentazione a Malindi nel nuovo resort billionaire di Flavio Briatore della nuova stagione di The Apprentice che andrà in onda. Notazione tecnica non indifferente, non su Cielo come la scorsa, ma su Sky 1 HD dal 17 gennaio. Quindi andrà in onda non in chiaro, ma su Sky 1 HD la seconda stagione di questo fenomeno. proprio un fenomeno da culto. Anzi, io farei un ripassino. Ripassino delle regole del grande manager secondo Flavio Briatore, che in The Apprentice doveva scegliere tra alcuni concorrenti un collaboratore. Sentiamo qui una parte delle regole del boss. Regola numero 3: devi provare qualcosa a te stesso, non agli altri. Io sono partito dal gradino più basso e ancora oggi sono ambizioso, arrabbiato, affamato. Devi essere un buon coach, devi saper gestire gli altri motivandoli, aiutandoli, rendendoli fedeli. Ambizioso, arrabbiato, affamato. Il successo è sacrificio. Beh, io sono d'accordo. Cioè, non mi pare, è affamato. Stay foolish. Stay foolish, stay hungry. È la versione di Briatore. Insomma, adesso qua siamo. Ecco, qui stiamo un po' esagerando, però diciamo. Ci sono delle regole che ritornano in diversi tipi di aziende. Esatto, e io sono stata una grande fan di The Apprentice numero uno. Sono no, molto comunque curiosa. Tecnicamente poi una trasmissione. Ma con come dei fa numeri vedere pazzeschi. La città di Milano? Esatto, Milano, esatto. No, sono con dei numeri bellissimi. Ma sono sempre lassù? Su quel. Non solo, vanno anche pirellone nuovo? Vanno anche all'estero. Ah, quest'anno International, la globalizzazione. Marrakesh, New York. Ma ragazzi, ma ci saranno delle cose non... Allora, io ho già visto qualcosa, ma non vi posso svelare tanto di più. Cosa posso farvi sentire? L'intervista a Flavio Briatore. Ecco, sì, beh, certo. Allora, la premessa è che l'intervista l'ho fatta il primo giorno, ma Lindy gli dava ancora del lei. Poi sì, ho preso un po' di confidenza. Ha già avuto un certo qual successo questa intervista. E beh, insomma, sì, è stata ripresa. È già stata un po' discussa. Te l'ho detto, lui è uno di fronte al quale non si può rimanere indifferenti. E credo che sia una delle delle allora, ragioni del lasciamo non indifferenti i nostri radioascoltatori andando in onda. Flavio Briatore, eccolo qua. Flavio Briatore, dopo la prima edizione di The Apprentice, è diventato un fenomeno cult della televisione. Ma se lo aspettava? Di essere un fenomeno, sì. Di essere cult della televisione, sicuramente un po' meno. Per cui è stata una bella sorpresa, no? Un fenomeno cult anche per un pubblico che, lei lo ha detto prima, non lo apprezzava. Si è trovato in situazioni in cui... si sono complimentati con lei, insomma, personaggi che non dimostravano di non apprezzarla. No, la cosa carina è stata che chi ha apprezzato Apprentice, e oltre ai ragazzi, ai giovani, perché è un po' tutto un challenge, una sfida, anche persone molto, per me molto inaspettate. Il notaio, l'avvocato, i giornalisti di certi giornali che sicuramente non ti amano. No, però è la dimostrazione che puoi fare un qualcosa che è diverso e un qualcosa che la gente capisce che è vero, no? E capisce anche l'impegno sia nostro, sia mio, della produzione di Sky, perché io credo che abbiamo visto Milano in un modo che nessuno ha mai visto Milano l'anno scorso, perché Milano sembrava veramente non Milano e sono stati molto bravi le riprese, per cui tutto questo ha fatto sì che questo prodotto abbia avuto successo ed abbia avuto la chiacchiera. La chiacchiera l'ha detto. La chiacchiera è un asset. La chiacchiera, ragazzi, è un asset. Poi noi, cioè, altrimenti non Twitter ci sarebbe Radio YouTube anche. Se non ci fosse la chiacchiera. Non ci sarebbe Twitter, non ci sarebbe Facebook, non ci sarebbe la televisione. Non ci se non ne parli, cosa la guardi a fare? E ha ragione quando dice che Milano si è vista, lo dicevamo, come bellissima Milano in The Apprentice. Assolutamente stupenda. Infatti, io devo dire che la parte che mi piaceva in assoluto di più era, diciamo, come si dice, la fotografia, la regia, tutto quel mix lì di cose. Ti ha un po' colpito quando ho detto di essere un fenomeno? Sì. Non sapevo cosa. Sei rimasta un po'. Non l'ho neanche. Non l'ho non editata, non l'ho tagliata, no. Non l'ho interrotto perché mi veniva da ridere. No, dovevo. Figurati, diventa un virale, dobbiamo metterlo all'inizio della trasmissione. Di essere un fenomeno, sì. È di essere un fenomeno, sì. Capisci culto, che... vediamo. Poi c'era un po' con alcuni giornalisti. Sì, no, anzi, ma diceva. Ma sta cosa di che... parlare male dei giornalisti. No, ma anzi, non stava parlando. Ah. Allora, ti spiego, lui diceva che è rimasto stupito perché alcuni giornalisti che di solito non parlano bene di lui e si riferiva ai colleghi del Fatto Quotidiano, in realtà invece si ritrovavano per vedere la puntata di The Apprentice. Quindi ha fatto pace anche, sì, perché poi sì, si vede che non ha questo elemento di... Come no, dire, anzi, forse vorrebbe essere più ecumenico. Rancore, esatto, no, ma lui vorrebbe essere ecumenico. Abbiamo detto la chiacchiera per lui è importante, sì. Twitter quindi per lui è importante perché è uno dei grandi fenomeni della social TV, lo è stato l'anno scorso, lo sarà sicuramente anche con la seconda edizione. Sentiamo sempre cosa ha raccontato a Malindi, tra le palme di Malindi, Flavio Briatore. Beata. ho iniziato Twitter l'anno scorso da zero e quest'anno credo di essere a 150.000, ed è nato un po' dall'Apprentice, perché tutti mi chiedevano perché hai buttato fuori quello e non quella, e c'era la discussione. E uno dei grandi miei al martedì era Luciano Benetton, che mi chiedeva, mi diceva, ma perché Luciano l'ho buttato fuori, perché, ah, ecco, perché poi è anche difficile capire perché, cosa c'è dietro le quinte, no? Perché io le prove le vedo, parlo con i miei collaboratori, lui. È stato interessante vedere che molta gente ti fermava per strada e ti faceva i complimenti. Lei recentemente ha utilizzato Twitter anche per la mobilitazione in favore della Sardegna, quindi Twitter può servire per tante cose. Più che Twitter ho usato i soldi e ho usato le case, perché Twitter, come tutte le robe, può anche essere aria fritta se tu non fai delle robe reali, perché io ho visto che hanno twittato tutti, dai famosi VIP e tutti quanti, poi cacciare il grano nessuno ci ha pensato. Io credo che le cose bisogna farle e poi le twitti, e non twittarle e non farle. Un'ultima cosa, quando Donald Trump l'ha convinta a prendere il suo posto in Italia per The Apprentice, ha detto easy easy, adesso lei ha sentenziato easy un par de palle. Easy un par de palle, lo sentenzio ancora, perché c'è molto lavoro, bisogna rendersi conto di una cosa, che noi abbiamo mai ripetuto una scena, io mai ripetuto una boardroom, anche perché ripetendola poteva, io mi sono sempre rifiutato, perché diminuivi anche il tuo modo di essere nei confronti dei candidati, no? Io mai voluto ripetere niente, anche se si sbagliava la tenevamo lì, perché a quel punto lì era come se io in ufficio uno mi dice una roba e poi dico no, aspetta che te la ridico in modo diverso, e non ha senso, no? Allora questa è la cosa che secondo me ha fatto una grande differenza. Eccolo qua, Flavio Briatore non ripete. Briatore non ripete, come Paganini. Ha ragione. Anzi, ha anche detto di più, ha detto che magari quelli di Sky, a volte, o della produzione di Fremantle, avrebbero preferito che lui cacciasse dei concorrenti diversi, magari uno meno carino, uno invece lui è andato in testa sua, e infatti il vincitore, Francesco Menegazzo, è vero, io l'ho conosciuto, è lì a lavorare a Marini, beh, certo. È reale. No, perché sai che si dice sempre il vincitore di Sanremo non è vero, il vincitore di Sanremo non è vero. Ma magari qualcosa del racconto un po' sceneggiato. Beh, no? Il racconto va poi comunque, certo. Beh, ovviamente. È sempre televisione. È televisione che galaga la forza di un leone, come diceva. Ma è tutto vero, perlomeno io il vincitore l'ho conosciuto, l'ho visto e anzi... E lavora lì? Lavora lì e doveva rimanere 3 giorni in Kenya, lì da 3 mesi. Alla grande. E ma ne anche torneremo a parlare qualche giorno in più. In collegamento come io, in collegamento, io da collegamento da Malindi. Non sarebbe stato male, invece sono tornata. E presto da Sanremo. E presto a Sanremo, sono tornata col bottino dell'intervista. Quando inizia? Flavio Briatore, 17 gennaio, manca ancora un pochino, ma torneremo a parlarne proprio perché... Insomma, avremo occasione di tornare su The Apprentice, perché ovviamente Sky saremo 1, no? Sky 1 HD, sì, non più su cielo, attenzione. Ma ormai anche le TV, diciamo, quelle più così, di nicchia sono invece poi, fenomeni. Poi i numeri, anzi sì, magari faremo il confronto. E poi lo riusano, numeri. No? E poi quindi lo portano di là, si butta via mai niente. Vabbè. Però noi abbiamo ascoltato solo 5 delle regole di Briatore, dai, finiamo di ascoltare le regole del boss, ascoltiamo anche l'altro, facciamo un ripasso. Prima del traffico? No. Prima del traffico? Ancora pochi istanti, facciamo un ripasso delle regole di Briatore in attesa della seconda edizione di The Apprentice. Regola numero 5: sul lavoro non ci si diverte. Per me il lavoro è una cosa molto seria, se ti stai divertendo probabilmente non stai lavorando bene. Non preoccuparti di ciò che dicono di te, il successo è la miglior vendetta. Regola numero 7: ricordatevi che il business non dorme mai. Non devi sottovalutarmi mai e non devi sopravvalutarti mai. E soprattutto non pensare di essere sostituibile. Il libro delle scuse con me ha poche pagine. Se sei arrogante sei fuori, se sei un cretino sei fuori, se fai troppa teoria sei fuori. Regola numero 10: il boss ha sempre ragione, anche quando torna. Daniele, anche in questo inizio 2014 abbiamo cominciato con il nostro RadioTube, una puntata con il meglio di. La prossima settimana invece tutto nuovo, anno nuovo, RadioTube nuovo. Ti ricordi all'inizio del 2013 c'era stato un hashtag molto diffuso, 2013, ti ricordi? È vero, 2013. Era, impazzava su Twitter, chissà nel 2014 che gioco di parole si può inventare. Anche perché crederci è un po' difficile, oltre a non poter fare un gioco di parole, vabbè, vedremo cosa c'è. Lanciamo come... Dunque, la prossima settimana ci siamo con Non più il meglio di. Non più il meglio di, con tutto nuovo, anno nuovo, RadioTube nuovo e protagonisti nuovi e la solita social TV, la solita TV, e vedremo che cosa ci riserva l'anno prossimo. Vabbè, ma ancora auguri a tutti, Ancora auguri per un buon 2014 e ci risentiamo la prossima settimana.